La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Leone d'oro per il miglior film. En du was sat pa en gren och funderat partir varon. A pigeon sat on a branch reflecting on existence by Roy Anderson. Ed è così allora che è stato annunciato a Venezia ieri sera il Leone d'Oro della 71esima mostra del cinema. Un saluto da Franco d'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, la nostra ora di cinema settimanale qui su Radio 24, edizione speciale questa volta della domenica, non solo una replica perché appunto ieri sera si è concluso con questo verdetto abbastanza a sorpresa il Festival di Venezia numero 71. Allora il piccione seduto sulla panchina che riflette sull'esistenza, titolo tra il Wertmüller e il Kaurismäki, diciamo più o meno, è il Leone d'Oro 2014, lo firma Roy Anderson, regista svedese di 71 anni, un vero e proprio regista da festival, premio della giuria nel 2000 a Cannes, candidato all'Orso d'Oro nel 70 a Berlino, insomma è il classico regista che con la sua arte ha portato in giro un cinema comunque sempre di grande sperimentazione visiva e di grande innovazione di linguaggio nei consessi del festival, e questo è stato un po' l'elemento polemico, diciamo, su questo palmarès della giuria, nella quale c'era anche, lo ricordiamo, Carlo Verdone, perché si è detto era un festival nel quale non mancava la materia prima anche di carattere un po' più universale, narrativo, e si pensa soprattutto a Birdman di Nyarrito, che ha aperto il festival e che poteva tranquillamente concorrere al Leone d'Oro. È stata fatta una scelta più artistica, forse anche un po' più coerente, e all'intellettualità della giuria e anche al fatto di essere mostra d'arte cinematografica. Forse si sono molto ispirati a questo nome del Festival veneziano. Gli altri premi: Leone d'Argento per Andrei Konchalovsky, un grande nome del cinema internazionale, per Le Notti Bianche del Postino, e poi gran premio della giuria The Look of Silence di Joshua Oppenheimer, film americano. Coppe e Volpi per i migliori attori alla coppia di attori di un film italiano, Hungry Hearts di Saverio Costanzo. Fra poco sentiremo tra l'altro il regista raccontare anche un po' le scelte di Alvaro Orvacher ed Adam Driver, che sono stati premiati con la Coppa Volpi. Premio Mastroianni per l'attore emergente a Roman Paul per Le Dernières Coupes du Marteau, e ancora ricordiamo un premio a un film italiano, a Belluscone, una storia siciliana, premio speciale della giuria Orizzonti, il film di Franco Maresco, nelle sale già da questo fine settimana, quindi potete andarlo a vedere sin da subito, mentre il miglior film di Orizzonti è Kurt, e il miglior premio e la miglior regia sempre di Orizzonti è per il film Tib. Insomma, questo è un po' il palmarès che trovate poi dappertutto in internet e su tutti i media, ma noi ne vogliamo ragionare. Prima però voglio farvi ascoltare la reazione e la dedica molto particolare di Roy Anderson dopo aver ritirato il Leone d'Oro. Grazie mille. Thank you very much. It's a great honor to receive an award, this award at Venice Film Festival in Italy, a country that has delivered so many masterpieces in film history. And I would say that if I hadn't seen some of them, I wouldn't have been a director. And number one on my list concerning influence is Vittorio De Sica, Ladro di Bicicletta. E insomma, avete sentito l'onore di ricevere un premio in Italia che ha sfornato così tanti capolavori della storia del cinema, e dice Roy Anderson: se non avessi visto Ladri di biciclette di Vittorio De Sica non avrei fatto il regista. Insomma, una dedica che coinvolge in pieno il nostro paese. Sentiamo se da questo palmarès è convinto il nostro Boris Sollazzo da Venezia. Ciao Boris. Ciao Franco, chi lo sa, nel senso che è sempre un problema continuare a pensare di fare un grande festival nel terzo millennio e continuarlo a conciliarlo solo con le logiche della mostra d'arte cinematografica, anche capire che cos'è l'arte in questo momento. Nel senso che Roy Anderson in assoluto non è un premio immeritato, assolutamente. Il film è molto buono, ha una sua sensibilità, questo umorismo malinconico, questa visuale strana, no? Appunto di un piccione, adesso ci vuole una visuale immobile, una visuale distaccata su due venditori che passano di episodio in episodio con una camera piuttosto fissa, diciamo che non è una bella categoria critica da tirare fuori, però è il classico film un po' punitivo, cioè che il pubblico in sala potrebbe soffrire e che il cinefilo invece adora, è quel tipo di film che manda il cinefilo in brodo di giuggiole. E questo che cosa fa? Nel momento in cui ci sono film molto buoni come Anime Nere, come Birdman, che invece non in qualche modo non respingono il pubblico, e allora si fa fatica a capire per quale motivo comunque una giuria di cineasti, comunque di lavoratori del cinema, che in fondo dovrebbero accarezzare anche quello che è il pubblico, non scelgano questi film grandiosi. Poi tra l'altro va pure detto che nel caso di Birdman noi ci ritroviamo con Cuarón e Birdman che in 2 anni hanno fatto 2 film straordinari, Gravity ha fatto anche razzia di Oscar e non prende neanche un premio a Venezia. E ci si lamenta però, c'era Barbera in un'intervista a Hollywood Reporter che parlava solo di qualche americano che veniva a Venezia, cioè ci si lamenta del fatto che gli americani non arrivano a Venezia, cioè volendo fare una battuta con Cialoschi che era il mio leone d'oro, forse ha pagato il fatto di aver fatto a 30 secondi dalla fine Tango e Cash e allora se lo ricordavano ancora e gli hanno dato solo il leone d'argento, cioè mi sembra che ci sia una volontà troppo forte di chi va a fare il giurato a Venezia di staccarsi da tutto il resto, cioè di non ricordarsi in che contesto si è. Di sicuro non approvo minimamente la scelta, e mi dispiace, degli attori, perché si va a premiare dei 3 film italiani, quello più zoppicante, di Alvaro Rager, una delle peggiori performance, e di Adam Driver ancora devo capire se una performance l'ha fatta, perché ora ci vuole, aveva solo 2 espressioni, una con il bambino in braccio e una senza, insomma. Ecco, no, a proposito di questo, adesso noi sentiamo Saverio Costanzo. Io sono leggermente in disaccordo su questo aspetto. Il film non è certo un capolavoro storico, Angry Hearts, però a mio modo di vedere dei 3 italiani è anche vero che se è veramente il più zoppicante è anche un po' il più universale in un certo modo, e forse questa è stata la cosa che ha un po' aperto le danze su questo. Lo stesso Verdone ha raccontato, che era in giuria, ha raccontato, io ho parlato, ho difeso, ho fomentato anche un po' la giuria su un possibile premio a Munzi o a Martone, però vedevo che l'interesse degli altri giurati era invece più incentrato su questo Angry Hearts, che è una storia nera, molto molto attuale, di questa donna che si fa travolgere dalle sue convinzioni e ossessioni alimentari, e in questo travolge anche il suo bambino. Il film diventa un noir, un giallo. Piaccia o non piaccia, forse questa cosa è quella che ha un pochino più come dire interessato, e lo ha reso, e a mio modo di vedere potrebbe rendere anche in futuro il film un pochino più universale, e quindi coerentemente con la scelta, col discorso di che facevamo prima, cioè quello di film che hanno un respiro di un certo tipo, che possono anche dare lustro alla mostra, invece di scelte cinefile che io personalmente non critico, perché questo è cinema. Se poi, ecco, quello che si può dire, si prende a direttore di giuria, presidente di giuria, un compositore che per carità lavora nel cinema, non vuol dire che non debba avere una sensibilità, non vuol dire che non debba avere occhi per, però insomma, forse, ecco, la giuria era una giuria definita molto intellettuale, guidata da un musicista, insomma le scelte sono le scelte di questa giuria, lo sono in tutti i festival, le scelte di quella giuria di quell'anno, quindi sono scelte soggettive, per, anche se collettive, comunque sempre soggettive. Ma andiamo a sentire un po' che cosa racconta invece Saverio Costanzo proprio sulla scelta dei 2 attori, Alba Rohrwacher e Adam Driver, all'interno del suo film Angry Hearts. E Alba, l'ho pensata proprio, la storia l'ho scritta pensando ad Alba, dunque lei è stata a bordo, diciamo, di questo progetto da subito. Adam è un attore che a me piaceva moltissimo, anche se ha fatto sempre delle piccole cose, questo è il suo primo reale film da protagonista. E ha letto il copione e ha accettato di farlo, è stato molto semplice, diciamo. Per me lui è un attore autentico, è un uomo autentico ed è un attore autentico. Gli attori americani sono bravi, diciamo così, nella maggior parte dei casi c'è una versatilità proprio della recitazione che l'America ha, chissà, forse per la lingua, non so. Però è facile che si somiglino un po' tutti, no? Che abbiano un po' tutti le stesse facce. Invece Adam riesce a essere bello, brutto, riesce a cambiare moltissimo da come lo inquadri, diciamo così, anche la sua fisicità. Perciò è un attore molto completo, è coraggioso, è un attore molto, molto completo, un uomo anche molto serio, insomma una persona, per me è stato molto, molto bello lavorare con lui. E questo Saverio Costanzo sui suoi attori che hanno vinto la Coppa Volpi, poi chiaramente le polemiche rimangono aperte, meritato, immeritato, Leone d'Oro, Coppe Volpi, chi lo sa. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, dobbiamo parlare di un altro film che da Venezia arriva nelle sale italiane, un altro film targato Italia, ovvero I Nostri Ragazzi di Ivano De Matteo con Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Locascio e Barbara Bobulova, un bel cast, una storia di famiglia potremmo definirla, quella di due fratelli dai caratteri assolutamente opposti che ogni mese si incontrano rigorosamente a cena nello stesso locale con le due mogli che si odiano simpaticamente, ma i nostri ragazzi, i figli saranno l'oggetto, la scintilla che farà scaturire qualcosa di quasi irreparabile. Ciao! E stasera c'è la cena con Massimo. Quanto gli piace a tuo fratello. Ci porta sempre nello stesso posto, ma da 10 anni. Vogliamo parlare della signora? Chissà come sarà vestita. Scusatemi. Avete già iniziato? Tua figlia ha trascinato due figli in questa situazione e tutta la vita che è così. Eravate voi? No, non eravamo noi. Ma come fai? Boris, i nostri ragazzi, due considerazioni. Una, il clima noir, a volte un clima, a volte un genere, mi sembra abbia pervaso abbastanza il cinema italiano a Venezia quest'anno, e questa è anche una, sicuramente una notizia in un certo senso. D'altra cosa, Ivano De Matteo cerca in qualche modo di fare una sorta di carnage italiano, cioè ancora qui due coppie che si ritrovano, che si odiano, che si detestano in qualche modo, e i figli a fare da spartiacque per regolare i conti dei padri. D'accordissimo su entrambe le considerazioni. Sul noir era una strada che aveva preso già in passato la letteratura italiana e che adesso sta seguendo anche il cinema, che ha capito che il linguaggio di genere in questo momento è la migliore traduzione della realtà che si possa fare. E la cosa interessante di questo carnage all'italiana è che viene fatto da Ivano De Matteo, cioè un uomo e un regista completamente diverso da Polanski, che quindi lo declina secondo la sua etica e poetica, molto dura, molto ruvida, molto immediata. Non cerca raffinatezza, cerca di prenderti a schiaffi raccontandoti la realtà. Una collega molto brava, Ilaria Ravelino, l'ha definito il lato oscuro di Muccino, non ha tutti i torti, perché i nostri ragazzi, che è tra Parioli e Prati, due quartieri di Roma, racconta questa borghesia moderna, molto romana, potremmo definirla anche la grande bruttezza, che cresce i propri figli, i propri giovani in una totale assenza di valori. Non ci sono neanche i disvalori, è proprio una totale assenza di messaggi, in negativo o in positivo, che permette a questi ragazzi di sentirsi onnipotenti e di poter fare quello che vogliono. E racconta questo, lo racconta fin dall'inizio con una scena molto dura, molto forte, che è il centro del film, che è il centro di quello di cui si parlerà. Di quello che causerà poi tutte le conseguenze. De Matteo si ritrova con un cast molto solido, molto forte, che insomma lo aiuta nel divanarsi della storia. Non è forse il suo film migliore, continuo a pensare che Gli Equilibristi fosse veramente un piccolo capolavoro, però De Matteo riesce a continuare a dipingere, a ritrarre la nostra società nei suoi lati più oscuri, e lo fa guardando soprattutto in alto, soprattutto verso quelle classi che dovrebbero essere quelle dirigenti, che spesso sono quelle che invece stanno mandando in rovina il nostro paese. Ivano De Matteo, a mio parere, ha una tale sincerità di racconto, sia visiva che narrativa, che poi inevitabilmente non può che catturarti, e quindi va promosso ai nostri ragazzi. E allora, esaurita la parentesi di film che arrivano da Venezia direttamente nei cinema italiani in questo fine settimana, cominciamo a giocare insieme, come sempre, con il nostro film misterioso che dovrete provare a indovinare per vincerlo. Non ho mai fatto il jet ski. Mai fatto il jet ski in vita tua? Non l'ho mai fatto. Non sei mai stata su un jet ski? No, scusa, mai stata. Ma quante volte glielo devi chiedere? Non c'è mai stata. E allora, avete già indovinato di che film si tratta? Vi aspettano due copie della edizione super lusso di questo film in Blu-ray. La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per provare a vincere il film, una delle due copie. Più tardi vi faremo sentire un'altra traccia. Abbiamo iniziato questa cosa dei mercenari insieme, ma abbiamo avuto un problema. Che cosa intendi fare? Ricaricare. La tua squadra. Preavviso breve. Sì, molto breve. Si può essere così stupidi da cacciarsi in certi casini? Noi siamo i soli abbastanza pazzi per tirartene fuori! Siamo passati dall'altra parte della barricata del weekend cinematografico, cioè non i film italiani e da Venezia, ma quelli che come dire, sottolineano questo primo weekend di settembre, questo primo weekend di ripresa ipotetica della stagione cinematografica. E allora si comincia subito con la consueta parata di stelle di mercenari, di Expandables. Ricorderete il progetto cominciato qualche anno fa da Sylvester Stallone di mettere insieme un po' tutti i forzuti del cinema degli anni 80 e 90 per fare una storia che ha avuto molto successo a livello di botteghino in tutto il mondo. È arrivato il 2, adesso arriva il 3, appunto i mercenari 3 con sempre Sylvester Stallone, Jason Statham, qui Antonio Banderas, Jet Li sul versante femminile, ma in sono veramente da Dream Team: Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Mel Gibson, Harrison Ford, Schwarzenegger ovviamente, e anche giovani come Kellan Lutz, reduce dalla saga di Twilight. Boris, in questi casi chiaramente le trame, le storie sono veramente un pretesto per mostrare muscoli e far fischiare pallottole. È così anche stavolta? Ma assolutamente è così. Insomma, fin dalla sua presentazione il Expendables 3 è stato spettacolare, eccessivo, e poco interessato forse alla sua parte cinematografica. Ricordo questo Cannes in cui andavano in giro con tre carri armati con tutto il cast sopra, e diciamo che mi sembra un'ottima fotografia di quello che è i Mercenari 3, molto divertente, perché non può essere altrimenti. È come quando tu metti fai una partita come quella che abbiamo recentemente visto per il Papa e metti tanti campioni messi insieme, poi alla fine comunque qualche giocata, qualche momento di grande divertimento ce l'hai. Pretendere che sia cinema, quello è veramente troppo, ed è anche impossibile, perché loro sono talmente tanti e pretendono comunque un loro spazio, un loro protagonismo, che davvero regia e sceneggiatura non hanno la possibilità di espandersi, di raccontarsi. Qui forse poi c'è un difetto in più, che chiaramente questa è un'operazione nostalgica, un'operazione che vuole parlare a chi quei personaggi li ha consegnati al mito, e quindi ci stanno tanti occhiolini al cinema anni 80, all'action, a proprio un certo determinato tipo di battute, ai vezzi e ai vizi degli attori coprotagonisti, perché ci sono più o meno tutti, e quindi è fatto proprio per amatori, cioè è fatto per chi quel cinema lo amava, è fatto per chi la saga dei mercenari l'amava. Quello che ci mette il regista è semplicemente il tentativo abbastanza riuscito di tenere alto il ritmo. Per chi questo genere non lo ama, francamente può tranquillamente passare la mano, perché davvero parla solo ai convertiti, ecco. Ecco, e chi invece questo genere non lo ama, ma ama piangere al cinema, ama le storie strappalacrime, ama i best seller che arrivano in sala così in 4 e 4 8, magari senza tantissimo lavoro sulla sceneggiatura, ci potremmo, come dire, tuffare su quello che è, in questo senso, in questa fase, un film molto atteso, perché appunto il libro in questo caso è stato un caso internazionale. Stiamo parlando di Colpa delle Stelle. Come ti chiami? Hazel. No, per intero. Hazel Grace Lancaster. Perché mi guardi in quel modo? Perché sei bella. Oh mio Dio. Vediamo un film. Cosa? Potrei nel fine settimana. No, parlavo di ora. Potresti essere un maniaco omicida. C'è sempre questa possibilità. L'incontro fra i personaggi del film: Hazel Grace, 17 anni, malata, malatissima di tumore, Augustus Waters, 18 anni, con una gamba artificiale, che ha così preso in amore e in è in simpatia questa ragazzina, tra i due accade qualcosa di speciale che ne ha appunto decretato il successo nel bestseller di John Green e che adesso diventa un film, Colpa delle Stelle, appunto, con la regia di Josh Boone e con un cast che nei ruoli principali ovviamente annovera attori molto giovani e non conosciuti, ma che vede per esempio anche Willem Dafoe impegnato recentemente anche a Venezia nel ruolo di Pierpaolo Pasolini. Boris, che potenziale ha questo film al botteghino in Italia? Secondo me è buono, nel senso che fa parte di quel tipo di film, mi vengono in mente gli ultimi due che mi hanno colpito, Restless di Gus Van Sant, Noi siamo infinito, in cui si raccontano quegli adolescenti che per motivi vari, per motivi diversi, sono emarginati dalla comunità dei normali, ma che hanno qualcosa comunque di speciale. E che in fondo è la condizione in cui tutti a quell'età ci troviamo, ci sentiamo e quindi parla di sentimenti che abbiamo provato tutti. Questo film in particolare lo fa con una delicatezza che però non è mai buonismo, non è mai come dire retorica, anzi in alcuni momenti ci sono anche delle battute molto ruvide, molto divertenti, in qualche momento persino grevi, che però entrano in una cornice molto gradevole, molto graziosa, che non può che farti voler bene al film. Nel suo piccolo non ha difetti sostanzialmente. La rosa purpurea. Note della colonna sonora di Walking on Sunshine. Stiamo parlando di un altro dei film, dei tanti film che arrivano in sala in questo primo weekend del mese di settembre. Dicevamo, ci si riprova col musical, con un musical molto semplice ma molto efficace. La mia esperienza personale è stata che alle giornate professionali di Riccione all'inizio di luglio abbiamo visto questo musical, ci è stato mostrato, cast totalmente inglese, ma atmosfere molto mediterranee, perché tutto il cast, tutto il film, scusate, è ambientato interamente in Salento, quindi a partire dalle prime scene all'aeroporto di Brindisi, poi tutta la bellezza del barocco leccese, dei mari salentini, per raccontare la storia di due sorelle che si condividono lo stesso ragazzo, mica niente di originale, insomma, però la prima delle ragazze, appunto, è andata via qualche anno fa, lasciando un amore incompiuto in una situazione che ricorda molto l'inizio di Grease, tanto per intenderci, e tre anni dopo ritorna per il matrimonio dell'altra sorella, la sorella maggiore, che invece si era fermata in quegli splendidi di territori, ma indovinate un po', succede che il nuovo fidanzato della sorella è quello che non dovrebbe essere, e allora da qui in poi nascono una serie di sicuramente di amori mordi e fuggi, di piccole rese dei conti, di spiegazioni, di delusioni, ma anche di abbracci e di baci amorosi, per arrivare a condire tutto con la grande musica, le grandi hit più che altro degli anni 80 e 90 che la fanno da padrone nella colonna sonora. Sentiamo questa clip. Che dovevo fare? Farmi monaco? Non lo so, magari non innamorarti di mia sorella. Ma che ne sapevo io che era tua sorella? Non ho mai conosciuto due persone più diverse. Che cosa vorresti dire? La cosa assurda è che ne stiamo ancora parlando. Sei tu che hai rotto e ti sei dimenticata di me. Non ti avevo affatto dimenticato, stavo cercando di laurearmi. Sì, come no. E comunque eri tu quello che passava le giornate in spiaggia circondato da ragazze in bikini. Ah, figurati, sai che non mi interessavano. Aspettavo che tu tornassi come avevi detto. Ma alla fine non sei più tornata. E ho conosciuto Maddie. Ed era così aperta, positiva, così piena di vita. Piena di vita? Quindi io non sono piena di vita? Beh, magari lo sei, ma uno come fa a saperlo? Non possiamo stare qui ad ascoltare, andiamo via. Non dare spettacolo dei tuoi sentimenti. Anche la voce di Whitney Houston, anzi le canzoni di Whitney Houston più che altro nel film Walking on Sunshine. Allora, Boris, il tentativo, l'abbiamo detto, è quello di fare un musical senza molte pretese cinematografiche, come una grande perfezione di realizzazione, per fare il musical romantico. Chiaro che il modello di Mamma Mia in questo caso è assolutamente imperante, però nonostante la leggerezza dell'essere di questo film, devo dire che alla fine della proiezione a cui facevo riferimento prima eravamo tutti col piedino che andava e col sorriso sulle labbra. Ed è quello che vuole fare, il matrimonio, il Mamma Mia anglo-pugliese, il matrimonio del mio migliore amico anglo-pugliese, quel classico film che è chiaramente un prodotto commerciale, abbastanza riuscito, devo dire, perché come te anch'io avevo il piedino ballerino alla fine della proiezione. Non c'è nessuna ricerca formale, stilistica nel racconto, ovviamente, e probabilmente non è stata neanche cercata, anche se è vero che poi non c'è nulla di sciatto nella presentazione del film. Dovete essere molto romantici, dovete amare molto la musica al cinema e non aver paura di sfociare nella banalità dell'amore. E allora, vedremo un po' cosa ne penseranno i nostri ascoltatori. Vi ricordo sempre la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e diteci anche cosa ne pensate dei film che andate a vedere. Siamo lì tutti i giorni a rispondervi. Allora, si gioca ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. $26,000 per i contorni? Ma che contorni erano? Guarivano il cancro? Sì, esatto, guarivano il cancro. Questo è il problema, ecco perché costavano così tanto. E allora una delle battute, delle tante battute divertenti di un film davvero adrenalinico, La Rosa Purpurea, @radio24.it, diteci il titolo del film e mettete il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray, edizione davvero di lusso, che riveleremo, sveleremo, recensiremo la prossima settimana. Il trono è mio! Dovremmo trovare un accordo. Ma tu chi sei? Sono Politea. Il mio trionfo sarà completo. Ecco fatto, ora siamo nei guai veramente. Libera Scar, maledetta! Ormai è mio. Ma tutte a noi le streghe malvagie che tengono prigionieri i fidanzati altrui. Volevo togliermi una soddisfazione nella mia carriera professionale, fare recensire le Winx a Boris Sollazzo. Adesso vediamo se riusciamo a farlo. Boris, te la senti? Diciamo che c'è qualcosa di crudele in questo esperimento, che ti perdono solo per i tanti anni di conoscenza amicale professionale. E io non mi sento in grado, domine non sum dignus, di raccontare le Winx, perché davvero io forse non le ho mai capite, nel senso che c'è questa vacuità dei personaggi che mi sembra, e adesso qua mi sento molto vecchio, anche diseducativa. Cioè c'è questa capacità di essere leggeri fino al vuoto pneumatico che non mi convince. Poi, per carità, Eugenio Straffi ha messo su una macchina da guerra che ha una tecnica di rappresentazione incredibile, soprattutto se si considera che è davvero tutto italiano, e quindi a livello estetico non mi sento di dover dire nulla. È proprio che ogni volta che vedo le Winx, e qui la cosa non cambia, non riesco a farmi prendere dalla storia, non riesco a farmi prendere dalla scrittura. Quindi credo che dovremmo trovare un critico, magari sotto i 14 anni, anzi una critica anche meglio, esatto, che possa essere molto più obiettivo e sereno nella valutazione delle Winx. Devo dire che insomma mi fermo, per l'aspetto professionale, ad applaudire un'eccellenza italiana per quanto riguarda l'immagine, perché lì veramente non c'è nulla da invidiare a nessun'altra cinematografia animata, e non è poco. Assolutamente, assolutamente. E l'eccellenza in persona è qui con noi alla Rosa Purpurea, l'intervista a Eugenio Straffi per parlare appunto di questo nuovo ritorno al cinema dopo tanti anni dei suoi personaggi più importanti, quelli che gli hanno dato tutto, la notorietà e anche questa struttura importante che è diventata la Rainbow. E allora Eugenio Straffi alla Rosa Purpurea. Eugenio Straffi, il ritorno delle Winx, che sembra quasi un western detto così, al cinema, quando un personaggio animato torna sul grande schermo, vuol dire che c'è una storia, cioè non è più il one shot ma diventa quasi un ciclo, quasi una saga. Qual è il tuo sentimento rispetto a questo ritorno di questi personaggi che così tanto ti hanno dato? sicuramente Winx, dopo 10 anni abbondanti di presenza in televisione e di presenza cinematografica ormai dal 2007, sono effettivamente oramai un fenomeno di costume, una saga, come diceva lei, che è passata attraverso diverse generazioni di bambine, continuando a riscuotere successo. Questo chiaramente è, diciamo, il carburante che ci dà tutta l'energia per continuare a creare nuove storie e dare appunto sempre nuova vita a questi personaggi che oramai hanno toccato l'immaginario collettivo di mezzo mondo. E la cosa a cui tengo moltissimo è anche il messaggio che diamo in questo film, che è molto forte, un messaggio ecologista, è un messaggio di attenzione per il destino dei nostri mari, dei nostri oceani. Qui abbiamo immaginato questa favola in cui appunto il petrolio generava questi mostri, queste creature che andavano a sconvolgere tutto l'equilibrio. Molti cartoni animati hanno avuto una fase di picco e poi dopo sono popolari ma rimangono lì. Qual è secondo te il motivo per cui per oltre 10 anni questi personaggi sono rimasti attuali? Sicuramente perché si basano su dei presupposti che non sono soggetti alle mode, cioè prima di tutto l'amicizia, i valori positivi e anche questa loro personalità così forte, così diversa da tanti altri prodotti che si vedono in televisione o al cinema. E quindi ecco che ogni bambina riesce a sognare con loro, immaginare di vivere una delle avventure delle Winx. Come avete lavorato a livello di animazione? Abbiamo utilizzato la tecnica del CGI, cioè della computer grafica, come per tutti gli altri film, perché questa è un po' la caratteristica che differenzia un po' la produzione televisiva da quella cinematografica, e chiaramente abbiamo sperimentato moltissimo e sviluppato dei software per rendere ancora di più le atmosfere appunto del mare, subacquee, piuttosto che la sabbia o altri ambienti che magari creano delle difficoltà se vengono affrontati con i software tradizionali senza sviluppo di programmi aggiuntivi. Quindi tecnicamente c'è stata una ricerca proprio su questo, sulle particelle dell'acqua, su alcuni movimenti che devono essere subacquei, non quindi con le dinamiche dell'aria. E poi devo dire che è soprattutto un film molto divertente rispetto agli altri. Abbiamo chiaramente, rimane di fondo l'avventura e, come ho detto, questo tema importante della battaglia contro i mostri marini, ma c'è molto spazio per la commedia, perché abbiamo voluto che chi andasse a vederlo, anche i genitori, avesse poi la possibilità di divertirsi con queste battute o situazioni molto originali. Faccio un'ultima domanda: 2D o 3D? Ma no, questo film l'abbiamo fatto in 2D, ma per la semplice proprio constatazione pratica che quello che spendevamo per fare tutti questi effetti mega galattici in 3D non veniva ripagato poi dalla sala, perché molte famiglie, non solo per il biglietto che costa meno, ma anche forse perché non trovavano tutto questo beneficio a portare gli occhialini eccetera, alla fine diciamo che il box office era più 2D che 3D. E con le Winx, con Iginio Straffi, si chiude anche la parentesi, l'ampia parentesi del nostro programma dedicata ai film, ai nuovi film in sala. Grazie Boris, a risentirci la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. La Rosa Purpurea. Ed eccoci in fondo alla nostra corsa, l'ultima parte del programma, come sempre dedicata al cinema da vedere in casa, a partire dall'home video, a partire dalle novità in un video. Settimana scorsa avevamo giocato con un film d'animazione che è diventato sicuramente un brand importante a livello mondiale. Andiamo a sentire la clip. Oh, quante notti ho pensato al male che ho subito, ma poi ho reagito e finalmente ne sono uscito. E allora si trattava di Rio 2, Missione Amazzonia, il film diretto da Carlos Saldanha, è uscito proprio nel corso di questa stagione cinematografica 2014, con adesso la sua uscita in Blu-ray, in un video da parte di 20th Century Fox Home Entertainment. Allora, hanno indovinato per primi, durante lo scorso fine settimana, Maurizio Politi di Perugia e Franzito Strata, che non ci ha scritto il suo indirizzo, noi lo chiediamo sempre. sempre, scrivetecelo, perché così facciamo più alla svelta. Comunque saranno loro a ricevere la copia in Blu-ray di questo film di Rio 2, del quale parliamo per tutti gli aspetti tecnici della produzione on video con Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco Sruzzo, radioascoltatori. Sì, Rio 2, missione in Amazzonia, si tratta di pappagalli in Amazzonia da Rio de Janeiro per spiegare ai figli qual è il vivere selvaggio. In questo film d'animazione per bimbi con taglio slapstick e gusto spettacolare da musical sotto la targa Blue Sky per la Fox, un Blu-ray di ottima resa con più di un'ora di contenuti extra, tra cui karaoke, scene tagliate, audizioni di personaggi e un extra davvero peculiare, 15 livelli esclusivi del gioco Angry Birds Rio. Ebbene Giulio, questo per quel che concerne appunto il film Rio 2 Missione Amazzonia, il nostro gioco della scorsa settimana. A proposito di questo film, l'uscita è stata anche l'occasione per intervistare un italiano, come dicevo prima, che si sta facendo grande onore nel mondo. È un ragazzo che sta veramente scalando le tappe per quanto riguarda l'animazione. Parliamo di Gianluca Fratellini, provenienza barese. Ha cominciato a lavorare e a smanettare, come si suol dire, sui computer dell'animazione nel tempo libero, cercando computer anche di fortuna proprio in quella terra di Puglia. Da lì ha spiccato il volo, facendo veramente il giro del mondo e approdando adesso ai più grandi studios, adesso con la Blue Sky, che è appunto la produzione di Rio 2, nel quale ha avuto un ruolo importante. Ma facciamocelo spiegare proprio da Gianluca Fratellini, il suo ruolo in Rio 2 qui alla Rosa Purpurea. In effetti Rio 2 ho lavorato dall'inizio del film fino alla fine e subito dopo Epic. Lavorare con Carlo Saldana è davvero fantastico, è una persona davvero in gamba e molto, molto simpatica anche professionalmente. E diciamo che sì, ho lavorato su quasi tutti i personaggi del film in realtà, perché qui non abbiamo, come in altre aziende, magari i limiti su quali personaggi devi animare, quindi può capitarti di tutto, quindi questa è anche la bellezza di questa azienda, nel senso che ti danno più libertà di esprimerti attraverso vari personaggi. E quindi diciamo che Rio 2 è stata una bellissima esperienza, soprattutto dopo aver già visto il primo al cinema e poi lavorarci sopra sul sequel è stato davvero fantastico. Lavorare con talenti da tutto il mondo è stato davvero una cosa di molto vantaggio per me. Quindi diciamo che sì, con Carlo Saldana è stato davvero un incontro incredibile. Ci eravamo già conosciuti nel 2001 nel Festival d'Annecy e stavolta invece ci avevamo lavorato insieme, quindi è stato davvero un connubio incredibile. Senti, e come cosa è cambiato tecnicamente dal primo Rio, che tu hai visto solo come spettatore, a Rio 2? Intendo dire, quanto velocemente queste tecnologie vanno avanti e voi dovete ovviamente adeguarvi a questo tipo di ritmo. Certo, sì, alcuni personaggi sono stati ricostruiti, alcuni sono stati riutilizzati, però sempre sono cambiate, diciamo, le tecniche di illuminazione, di rendering. Bisogna ricordare pure che su Epic c'è stato un grosso lavoro per quanto riguarda la resa della foresta, tutto quanto, quindi quello è stato davvero un passaggio enorme, un investimento da parte dell'azienda per cercare di realizzare al meglio le ambientazioni dell'Amazzonia, di tutta la foresta, e quindi anche le piume dei pappagalli. Poi a livello tecnico ovviamente anche i rig, che sono gli scheletri che noi animiamo nei personaggi, sono stati comunque implementati, cambiati e fatti in modo che potessimo fare di tutto possibile. E quindi a livello tecnico era pauroso, nel senso che per me era la prima volta che lavoravo su questi pappagalli e non credevo fossero così tanti i controlli che avevano. Quindi all'inizio era davvero da mettersi le mani nei capelli. Poi pian piano ho cominciato a capire le varie tecniche che usano qui per rendere il lavoro più rapido e tecnicamente all'avanguardia. Quindi non solo a livello di storia Rio 2 secondo me è stato meglio, ma anche a livello di tecnico e di qualità. Quindi per me la difficoltà è stata quella di non solo di imparare a dare la stessa personalità che avevano dato nel precedente film, ma anche aumentare questa qualità che volevano. Quindi diciamo che è stata una grossa sfida, diciamo, per tutti noi. Senti Gianluca, adesso su cosa stai lavorando? Adesso stiamo lavorando sul nuovo film della Blue Sky, sempre, che è Peanuts, con Snoopy e Charlie Brown, quindi stiamo già in produzione adesso. Quindi un personaggio totalmente bidimensionale di una generazione assolutamente 2D che diventa anche lui 3D. Sì, esatto, diventa 3D, ma sempre conservando minuziosamente, lo dico sottolineato, lo stile di Schultz, che in effetti ha uno stile particolare, quindi bisogna rispettarlo e bisogna cercare in tutti i modi di renderlo così com'è nel fumetto. Quando nasce il tuo sogno di diventare animatore, quando cominci a cimentarti con l'animazione, e soprattutto come avviene a un certo punto il grande salto negli Stati Uniti? Raccontarlo in poche parole è difficile, diciamo che è stato abbastanza complicato, nel senso che sono nato in un paesello, quindi era abbastanza difficile, non avendo una linea internet all'epoca, non avendo possibilità di collegarsi nemmeno a YouTube, non esisteva neanche YouTube all'epoca, e parliamo di 14-15 anni fa, ho dovuto navigare tra sfogliare libri in libreria, comprando magari riviste che parlassero di grafica computerizzata, perché all'epoca in effetti non era molto sviluppato, diciamo, no? In realtà io non credevo di diventare un giorno un animatore, infatti non sapevo nemmeno l'esistenza di questo lavoro, quindi è nata più che altro come coincidenza, nel senso che sono nato come generalista, nel senso che mi occupavo di tutto, di grafica, ho cominciato addirittura il mio primo lavoro a 16 anni, 17 anni, era quello di creare dei volantini, non so, e poi pian piano ho realizzato prima alcuni test, sempre in casa, poi ho cominciato a realizzare un cortometraggio, ma giusto così per passione. Subito dopo una settimana ho ricevuto una prima email da un'azienda in Lussemburgo. Il passo successivo è stato quello di imparare proprio in azienda, dove ho avuto la possibilità di fare uno stage di 3 mesi. Per 3 anni, mentre lavoravo di notte, realizzavo un altro cortometraggio che è Life in Smoke, Una vita in fumo. E questo, diciamo, che è stato davvero la bomba che ha scatenato un po' le acque per farmi conoscere. Gianluca Fratellini, quindi animatore di Rio 2 ai microfoni qui della Rosa Purpurea. Siamo ancora in collegamento con Giulio San Giorgio, con Fil TV, perché dobbiamo ancora regalarvi la perla estratta dai palinsesti televisivi della prossima settimana. Qual è il film da vedere a tutti i costi, Giulio? Sì, il film che abbiamo scelto in questa settimana, che è comunque ricca, è Boy Meets Girl, venerdì 12 settembre alle 1:50 di notte. Fuori orario recupera il primo film di Oka Rax, datato 1984, esordio nel lungometraggio di un autore 23enne che ai tempi, come i padri della Nouvelle Vague insegnavano, veniva dal cortometraggio e dalle pagine dei Cahiers du Cinéma. Una storia ridotta all'osso, un ragazzo incontra una ragazza, il mito del cinema, di tutto il cinema, da quello muto a quello moderno che muove ogni immagine, per un noir rosso sangue, un inno alla gioventù, un film di sicuro culto. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, e la prossima settimana con le nostre segnalazioni. E siamo giunti così alla fine della nostra trasmissione, si conclude la nostra ora di cinema qui su Radio 24, appuntamento alla prossima settimana per parlare di tutto il cinema che c'è in sala e in casa. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.